In questo fiume abbiamo anche una fauna ittica. I principali pesci che si trovano in questo fiume sono le trote fario, le marmorate e gli scazzoni. Anche voi sapete uova. Che poi anche la provincia noi immettiamo nei corsi d'acqua anche degli avanotti. Sai cosa sono gli avanotti? Sì. Cosa sono? Gli sono avanotti? I piccoli di... Bravo, bravo. Della trota. C'è un incubatoio dove che vengono prodotti dalle uova che vengono presi dalle fattrici, vengono fatti questi avanotti. E poi c'è una carta ittica che in base alle quantità che sono prescritte vengono immesse tutte nei corsi d'acqua. Noi si mette di solito o tipo fario o tipo marmorata, perché si è visto che sono le due razze autoctone, cioè vuol dire che hanno stabilito che sono proprio di origine di questi territori qua.